Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. È successa una brutta cosa, Chiara, questa settimana, sì. Ma noi adesso la risolveremo, incominceremo a risolverla. I titoli e poi saprete subito, ma forse avete già immaginato, di cosa vogliamo parlarvi in apertura. La teoria dei grafi non ci dirà chi sarà il nuovo Papa, ma ci può dire chi sarà decisivo nella scelta. Lo hanno calcolato due matematici italiani. La panchina di legno è più calda di una panchina di marmo. Perché? E una panchina di plastica? A questa domanda Mebius troverà una risposta. Baby Lab, il laboratorio di ricerca su piccoli umani. È a Londra e studia tutte le nostre prime interazioni con il mondo, fin dalle prime 24 ore di vita. Saper fare ricerca non vuol dire saper fare impresa. Un progetto di Distretto Tecnologico Pugliese. Luigi Amodio, buonasera. Buonasera a voi. Direttore della Città della Scienza e insomma sappiamo. Di Napoli, e se purtroppo sappiamo quello che è accaduto. Quello che è accaduto, mi pare che converga sull'incendio doloso. Pare di sì, queste sono le notizie che anche noi stiamo apprendendo. Non si sa ancora molto con precisione. Devo dire che se questo viene confermato, purtroppo ci consegna anche un'immagine della Camorra come di una istituzione, vogliamo chiamarla così, molto intelligente, perché la Città della Scienza è un messaggio di futuro e di modernità. C'era anche un centro di ricerca dentro, importante, oltre che di divulgazione scientifica, tutta la parte dedicata ai bambini. Quindi il danno sulla trasformazione, sul cambiamento è molto forte. Però senta, Amodio, noi qui vogliamo entrare già in positivo, cioè la Città della Scienza adesso dobbiamo rifarla, più bella di prima. Se sì, è bruciato, riesce... l'involucro, ma il sogno, diciamo, l'ideale no, giusto? Sì, assolutamente, ma vorrei anche dare un elemento di chiarezza, perché è molto importante, e invito veramente tutti gli ascoltatori ad andare su Google Maps nella modalità satellite, perché così capiscono anche come è fatta Città della Scienza. Se andate su quella schermata, vedrete che quello che è andato distrutto nella foto attualmente online è ancora in piedi, ma certo, non c'è più, è il padiglione che dà sul mare. Tutto il resto è assolutamente funzionante, è appunto l'edificio da cui in questo momento io vi sto parlando. Sì. Quindi le attività congressuali di formazione, le attività dell'incubatore di imprese e tra pochissimo anche le attività di divulgazione scientifica ricominceranno. Possono riprendere quelle lì? Assolutamente, riprenderemo con conferenze, spettacoli, e stiamo facendo uno studio, ora chiaramente insomma siamo ancora un po' frastornati, stiamo ancora un attimo riorganizzandoci al meglio, ma sicuramente noi riprenderemo delle attività espositive tra poco tempo, manterremo i campi estivi della cosiddetta estate dei piccoli, campus per i bambini. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare è che Città della Scienza non è stata distrutta, rimaniamo qui, non ci muoviamo da questo luogo che è nostro. Senta, noi fin da subito abbiamo cercato di divulgare con i nostri mezzi le possibilità per potervi aiutare. Subito avete istituito un fondo, un IBAN, no? Un conto corrente per poter cominciare a raccogliere qualche aiuto che viene da noi, dagli ascoltatori, da chi è sensibile. E quindi avviso tutti che insomma per potersi mettere in contatto con voi, avere ovviamente l'IBAN corretto, possono arrivare sul vostro sito, ma anche sul nostro www.moebiusonline.eu. Vi abbiamo dedicato una pagina in home page e quindi si trova tutto. Insomma, come sta andando? Avete riscosso parecchio affetto, mi par di capire, almeno noi nella comunità scientifica l'abbiamo sentito forte. Allora, devo dire, intanto ringrazio voi, ringrazio quelli che hanno sottoscritto, ringrazio quelli che sottoscriveranno, perché veramente è stato un grande moto che ci ha davvero commossi. Noi non siamo tanto stupiti, devo dire la verità. Giusto. Non lo dico per presunzione, ma perché sapevamo, diciamo, di essere amati dal nostro pubblico, perché quando una persona viene e sta ore e ore a visitare un posto, vuol dire che in qualche modo lo ama, e se ci torna vuol dire che lo ama ancora di più. anche, devo dire, i messaggi che sono arrivati dalla Commissione Europea, dalla commissaria alla ricerca. Senta Modio, io qui è chiara, prendiamo questo impegno. Noi riceviamo tanti comunicati di iniziative, possiamo metterne poco perché sennò andrebbe in via tutta la trasmissione. Però da questo momento voi, se anche fate una riunione per la quale avete bisogno che arrivino 10 persone, noi l'annunciamo. Cominciamo a aiutarvi in questo modo. E poi mi pare di capire che via, l'attività non si ferma, siete già in fermento, quindi diventerà più bello di prima. Su questo noi siamo assolutamente fiduciosi. Sì. Davvero in bocca al lupo, e per qualsiasi cosa, insomma, potete contare su di noi, i nostri ascoltatori, sono certa di parlare anche per loro. Noi ringraziamo voi e ringraziamo ancora una volta tutti quanti. Grazie e buon lavoro, arrivederci, a presto. Buonasera e grazie a voi. Va bene, usciamo da questa pagina importante. E Chiara, mi ricordo un Natale di tanto tempo fa che io arrivai con delle vecchie foto che avevo recuperato da una mia zia e ci si mise tutti intorno a un tavolo. C'era una foto di un personaggio che tutti dicevano: ma chi diavolo è questo qui? Poi dovevamo cercare di riconoscere. È arrivata la zia e ha detto: ma certo, questo qui era lo zio Enzo. Ecco, si vede, perché lui era del Cavalleria Savoia, aveva in testa un elmo e quello lì significava che lui. E abbiamo capito chi fosse. No, in realtà l'abbiamo presa larga, ma è andata proprio così. Cioè, diciamo che abbiamo capito di lui l'altezza, il colore degli occhi, qualche segno particolare, e adesso stiamo arrivando all'identificazione. Adesso la prendiamo ancora più larga per dire che, insomma, era lui, è un bosone di Higgs, quello che nel luglio 2012 fu trovato al CERN di Ginevra, in uno degli esperimenti del CERN. E però di pochi giorni fa è la notizia che era veramente lui, perché la scienza, insomma, funziona così: prima si fa la scoperta e poi si comincia a lavorare, si comincia a identificare, e in effetti hanno trovato parecchie somiglianze con quella che era la teoria standard. Dal quasi bosone al bosone, lo zio Enzo e lo zio bosone. Esatto, ed è, insomma, così nel comunicato ufficiale che è uscito da Sergio Bertolucci, che è direttore scientifico del CERN, che noi sentiamo spesso, e da Guido Tonelli, che è dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che lavora appunto all'esperimento. Dice che, ecco, siamo soltanto alla prima parte dell'identikit di questa persona. Si è capito che è un X, ancora bisogna capire che tipo di X, è un po' particolare, però, insomma, diciamo che questa è la notizia della settimana. Ma qui allora vogliono che abbia la faccia di Higgs a questo punto. Questi vogliono che abbia la faccia di Higgs. E ti dico di più: dicono che il nuovo passo è proprio studiare il ruolo che questo signor Higgs ha avuto nei primi istanti dell'universo. Quindi un personaggio, devo dire, che ha fatto la storia, diciamo così. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non possiamo sapere chi sarà il nuovo Papa. No, ancora no, devo dire che abbiamo ancora un paio di giorni, c'è un po' di ansia nell'aria. Beh, un paio di giorni si va via liscia. Sì, infatti. Però potremmo sapere chi è determinante per eleggerlo. Il fulcro, i punti cruciali. E questo dipende dalla teoria dei grafi. E per parlare di teoria di grafi e papato, abbiamo qui un esperto, però non in papato, ma in teoria dei grafi. Un matematico. Renato De Leone. Buonasera. Dell'Università di Camerino. Esattamente. Allora, teoria dei grafi, e allora però prima deve dirci qualcosa su la teoria dei grafi. Sì, forse è meglio introdurla per chi non sa cos'è. La teoria dei grafi nasce con Eulero. Con Eulero. Ecco, De Leone, molti pensano che Eulero sia magari un antico geometra greco, invece no, siamo intorno al 600-700. La nascita della teoria dei grafi è anche estremamente interessante. Nasce da una domanda oziosa che hanno posto a Eulero stesso: se era possibile passeggiare attraverso i 7 ponti della città di Königsberg, dove lui viveva, ritornando al punto di partenza e attraversando i ponti uno in una sola volta. Una sola volta. Ne abbiamo parlato a Möbius un po' di anni fa, sì. E qui invece voglio utilizzare la teoria dei grafi nel campo sociale, come si fa in tanti altri campi, per fare una previsione sul conclave. Ecco, ma De Leone, mi dica se sbaglio, la teoria dei grafi in pratica analizza un insieme di oggetti, situazioni, persone che hanno molte relazioni fra loro e cerca di creare un grafico, appunto, da cui si vede quali sono dei nodi nei quali c'è maggiore relazione, no? Ci sono delle linee immaginarie che uniscono i vari elementi. punti. E ci danno dei punti pregnanti, dei punti meno critici, no? La rete stradale è un esempio di grafo. Ogni volta che noi programmiamo il nostro navigatore, utilizziamo la teoria di grafi, inconsapevolmente utilizziamo la teoria di grafi perché calcoliamo la distanza minima, ecco, per arrivare da un punto A a un punto B. Certo. Okay. E a lei come è venuto in mente, scusi, di utilizzarla per il papato e le lezioni nel conclave? E che dati gli ha messo dentro? Allora, intanto un po' è colpa vostra. Nostra? Ah, è vostra, perché io conoscevo questa applicazione della teoria dei grafi a criteri di centralità. Era, diciamo, nella mia mente, però poi c'è stato un po' di tempo fa un articolo sulla teoria dei grafi e il calcio. Il calcio. Ah, colpa nostra dei giornalisti, dei divulgatori. Ah, ho capito. E cosa diceva? È piaciuto a una mia studentessa che è venuta da me in ufficio e ha detto: voglio fare la tesi di magistrale su teoria dei grafi e l'Inter. E l'Inter? Sì. Lei è estremamente tifosa dell'Inter, quindi si è messa a raccogliere tutti i dati, un po' di dati sulle partite dell'Inter, e ha applicato una serie di misure di centralità sui grafi. Per sapere che cosa? Per sapere quali sono i giocatori più centrali nel gioco dell'Inter. Ah. I giocatori cruciali, dove arrivano più palle, insomma. Chi è il fulcro dell'azione? Esattamente. Ok. Ecco, allora veniamo però al conclave. Al conclave. E quindi, diciamo, è stata quasi naturale. Mentre lavoravamo alla sua tesi magistrale, cominciare a pensare a applicare queste idee al conclave. Mi sono poi confrontato con dei colleghi anche dell'Università Bicocca, della Cattolica, e l'idea è utilizzare dati oggettivi, reperibili e certificati sul sito del Vaticano. Ma ad esempio, cioè, lei ha preso tutti i cardinali e come li ha messi in relazione tra loro? Abbiamo usato diversi criteri. Il primo è l'appartenenza alla stessa nazione o allo stesso continente. Abbiamo immaginato che cardinali della stessa nazione fossero più vicini tra loro. Fanno gioco di squadra, insomma. L'età. Il secondo criterio è stato l'età. Cardinali che sono più o meno coetanei, sono vicini tra loro. Istituti di vita consacrata, gesuiti piuttosto che salesiani, piuttosto che i vari domenicani, è stato il criterio successivo. Concistoro, cioè? Il concistoro nel quale sono diventati cardinali. Ultimo criterio, l'appartenenza ad una o più di congregazioni. Ce ne sono tantissime, congregazione per i vescovi o congregazione delle cause dei santi, certo, per l'evangelizzazione dei popoli e così via. Che sono sistemi di relazione fra loro, poi, di fatto. Esatto. Certo. Io mi immagino che partecipando a queste congregazioni i cardinali si parlino tra loro, si conoscano meglio. Siete arrivati a dei nomi. E siamo arrivati, quindi abbiamo costruito il grafo e abbiamo visto chi erano i primi 10. La cosa interessante è che 17... sono soltanto 17 i cardinali, dei 115 che entreranno in conclave, e ce ne sono soltanto 4 che sono a loro volta nei primi 10, in tutti e tre, certo, i criteri. Dunque, vediamo se abbiamo capito. Tra i 115 ce ne sono 17 che obiettivamente, statisticamente, hanno più relazioni tra loro e quindi sono, diciamo, più centrali nella scelta. Esattamente. Ecco. Fra queste 17? Ce ne sono addirittura 4 che sarebbero appunto i punti cardine. Più centrali dei centrali. Per la matematica, spieghiamolo. Ecco. E chi sarebbero? Ce lo può dire? Immagino che le informazioni transitano attraverso loro. Cioè, loro sono quei cardinali che sono in grado, per il numero alto di connessioni che hanno con tutti gli altri, di orientare con le loro scelte. Sì, sì, sì, abbiamo capito. Ma ci può svelare chi sono? Il cardinale Diaz. Diaz. Il cardinale Gheorghe. Francis Eugene, Jorge, il cardinale Casper e il cardinale Levada. Levada, ma non c'è nemmeno un italiano qua dentro. Dei primi 17 ce ne sono. Allora, dunque, questi 4, noi qua abbiamo l'elenco, dicevamo Diaz è indiano, pensa indiano. Federico, è nato Mumbai. Sì. Georg è statunitense. Statunitense, vero. Casper, sì, è tedesco, quindi ci sarebbe un ritorno, ma non diciamo niente. E Levada, se non sbaglio si pronuncia così, sta negli Stati Uniti. Sta negli Stati Uniti. Sì. E quindi, insomma, non ce l'aspettavamo, perché scusi, gli italiani come sono posizionati? Sembra un po' la classifica. Ce ne sono un bel po' anche nella lista dei 17 e sono, secondo me, anche cardinali di cui si è parlato molto. Scola, sì. Ravasi, Ah, beh, allora lì c'è la pattuglia classica, certo. Bertone. Cioè. Nicora, questo è meno noto, insomma. Bisogna vedere se i tanti italiani fra i 17 riusciranno ad avere un peso superiore ai 400 nel rush finale. Esatto. Vabbè. Sugli esiti invece non avete studiato nulla. Lì come si fa? No, anche perché ci sono troppi altri fattori di cui non possiamo tenere conto, certo, che giocano un ruolo invece importantissimo. Quindi da matematico non si sente di fare una... No, così, una... io penso che uno deve fare previsioni sulle cose sulle quali può fare ragionevolmente su quali elementi. Ma senta, ma alla fine del conclave si potrà sapere se questa teoria dei grafi ha detto la verità o no? Cioè potremo sapere? Ci saranno un po' di gossip, questo però saranno i vaticanisti a dircelo. Esatto. Secondo me il passaggio successivo è parlare con un vaticanista e fargli vedere questi risultati. Guardi anche... che la prossima puntata potremmo anche provare a lanciare niente. La sfida. No, è stato lanciato il silenzio stampa totale. Se sabato prossimo a Mebius abbiamo già il Papa Nuovo, possiamo fare il gossip insieme alla statistica. Tu dici in onda no. Se abbiamo già il Papa, il Papa Nuovo no, a Mebius. Un vaticanista possiamo trovarlo. Va bene, intanto grazie. Grazie De Leone, buon lavoro. Grazie. E se la panchina fosse in pelle di capra? Dobbiamo chiedere al nostro fisico di fiducia perché non saprei risponderti. Certo, ce ne sono poche, ma... Vabbè, facciamo riferimento come al solito alle nostre domande impossibili che ci arrivano dagli ascoltatori. Velocissimi, i contatti. Allora Federico, abbiamo sfondato i 32.000 con Twitter, quindi continuate, dobbiamo arrivare a 33.000, forza. Moebius_online, esatto. Questo è Twitter. E poi seguiteci su Facebook, ovviamente, Moebius Scienza. Tra po' avremo talmente tanti amici che dobbiamo fare la fan page, ecco, io sono molto orgogliosa di dirlo, e poi la mail moebius@radio24.it, la conoscete. Ora diamo la parola al nostro panchinaro, Roberto. Come mai se mi siedo al parco su una panchina di marmo e su una panchina di legno percepisco temperature differenti? Grazie. Ci risponde il nostro fisico di fiducia dell'Università di Firenze, Emiliano Ricci. Bentornato Emiliano. Grazie, buonasera a tutti, buonasera. Allora, la domanda l'hai sentita? Beh sì, allora, questo è un problema che riguarda sostanzialmente due caratteristiche fisiche dei materiali, ovvero la conducibilità termica e la capacità termica. Rapidamente che cosa sono? Prendiamo per esempio la panchina di legno e la panchina di marmo. Sostanzialmente quando ci appoggiamo, quando ci sediamo su una panchina di legno, il legno è sicuramente alla temperatura ambiente, quindi sarà una decina di gradi, almeno anche 15-20 gradi meno a una temperatura inferiore rispetto alla nostra, però avendo una bassissima conducibilità termica, il passaggio di calore dal nostro corpo verso quello verso il legno sarà molto lento e quindi noi non sentiremo fluire il calore da noi verso il legno, come invece sentiamo se ci appoggiamo, se tocchiamo per esempio un oggetto di metallo, se ci mettiamo a sedere sulla panchina di marmo. Quindi la temperatura della panchina di metallo, la panchina di legno, la panchina di plastica è sempre la stessa, cioè quella della temperatura esterna. Se la panchina è ovviamente stata lì posizionata all'esterno, sicuramente la panchina si trova alla temperatura ambiente, esattamente la stessa temperatura a cui si trova l'aria che ci circonda. Ecco, è la percezione che cambia. È una questione legata alla percezione. Cioè noi ci sediamo sulla nostra temperatura, dopodiché se quello che ci sta sotto la conduce più o meno, sentiamo più o meno freddo. Esattamente, sostanzialmente succede questo. Noi, certo. I due oggetti a temperatura diversa, la termodinamica ci dice che devono raggiungere prima o poi un equilibrio termico, che si raggiunge quando l'oggetto più caldo diminuisce la propria temperatura e l'oggetto più freddo la aumenta fino a che non raggiungono la temperatura intermedia basata, certo, appunto sulla conducibilità termica, cioè da cui dipende la velocità con cui fluisce il calore dal corpo caldo al corpo freddo, certo, e dalla capacità termica, ovvero da quanto calore bisogna trasmettere al materiale perché questo la propria temperatura. Ecco, prima io scherzando dicevo la panchina di capra, ma lì però il problema è che se c'è del pelo allora siamo avvolti e quindi c'è un effetto protezione. La panchina di capra, la lana e altri materiali vari hanno fondamentalmente una doppia funzione di isolamento termico, quindi hanno una conducibilità termica molto bassa sia per il materiale stesso, quindi la lana è un materiale a bassissima conducibilità termica, ma poi il pelo raccoglie, trattiene in sé protegge, anche delle spese dell'aria, certo, e quindi ha una doppia funzione il pelo, perché abbassa conducibilità e trattiene anche l'aria. Sento che la dai come io esistente, io non ho mai viste pacchine di capra, poltrone, sì? Dai. Ah, beh, le poltrone, sì, no, la poltrona pelosa, pacchine di capra, no. Però volevo sapere se è un po' lo stesso principio questo che ci stai raccontando di quando camminiamo ad esempio in casa a piedi nudi, che andiamo sul parquet, poi invece sulle piastrelle percepiamo temperature diverse, invece no, è la stessa, quella di casa. Le piastrelle delle mattonelle e il parquet sono esattamente la stessa temperatura ambiente delle pareti e dell'aria che ci circonda nell'abitazione. Chiarissimo, va bene. Grazie, detto tutto. Grazie come sempre Emiliano, preziosissimo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, a presto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Peekaboo! Sì, ecco. Sei spaventata? No, mi fai molto ridere, come dovrebbe essere l'effetto del peekaboo. Però dovrebbe essere bubusettete. Esatto, in italiano è bubusettete. Che si fa come? E con le manine davanti alla faccia a un bambino e poi si aprono le manine e si vede la faccia. No, ma io mi rivolgo al bambino, sì, certo, con le manine davanti alla mia faccia. Poi apro e faccio bubusettete. Devi sorridere e lui vedrai che sorriderà a sua volta. Allora, questo è in assoluto il giochino che fa più ridere i piccoli. Sì, ma anche tu hai riso un sacco. No, io riso, ma questo... Vabbè. Comunque, e non è che lo dico io. Qui si fanno ricerche importanti, infatti adesso andiamo all'Università di Londra, perché c'è un centro che si chiama proprio Baby Lab, che studia quasi ed esclusivamente i piccolini e le loro reazioni ai giochi, agli stimoli, al sorriso, a un sacco di cose, al atto alla vista, ovviamente la ricerca è volta a capire qualcosa in più su quello che succede nel nostro cervello e soprattutto per trovare soluzioni a malattie importanti, quali ad esempio la sindrome di Down, ma anche alla cecità e a tutta una serie di discorsi e come affrontare queste coi piccoli. Lì a Londra c'è una nostra ricercatrice, una dottoranda per la precisione, italiana, che si chiama Maria Laura Filippetti, che è in collegamento con noi. Buonasera Maria Laura. Buonasera. Ecco, lavora lì al dipartimento, al centro di mente, cervello e sviluppo cognitivo lì alla Birkbeck University of London, e ecco, ci dica, allora, lei in particolare è lì per studiare in realtà come il bambino percepisce il proprio corpo, cioè da quando il bambino ha la sensazione di avere un corpo, delle mani, del sé. Esatto, quello che personalmente cerchiamo di fare come progetto di ricerca riguarda proprio la percezione del corpo, quando il bambino comprende che il proprio corpo appartiene a se stesso. Quando lo comprende? Più o meno, adesso lo so. Sì, quello che faccio è cercare di capire questo tipo di sviluppo non soltanto a livello comportamentale ma anche a livello di sviluppo cerebrale. Utilizziamo una tecnica che si chiama la spettroscopia del vicino infrarosso, e l'ho tradotta bene. Utilizza un tipo di luce per rilevare il tipo di ossigenazione cerebrale. È un cappello, diciamo, è stato costruito all'interno dell'università in collaborazione con la UCL. Una specie di cuffia? Esatto, sì. Che cosa fa questa cuffia? La mettete sulla testa del piccolo? Esatto, e a seconda delle zone cerebrali a cui siamo interessate osserviamo il tipo di attivazione utilizzando dei canali, proprio usano un tipo di luce per osservare l'ossigenazione, quindi se un tipo di area cerebrale è molto attivata osserviamo un'ossigenazione maggiore, quindi quello che noi alla fine dello studio vediamo è una differenza nel colore della luce. Quindi vedete una forte macchia rossa, ad esempio, in una parte del cervello, è così? Esatto. Un'intensa macchia. Vabbè, ma questo vuol dire che siete in grado di fare una differenza a seconda dell'illuminazione delle aree, perché se si illumina una certa area vuol dire che abbiamo la sensazione, la percezione del nostro corpo, mentre invece se non si accende vuol dire che non c'è. Non è facile pensare che sia... Come fate a sapere che quell'area lì vuol dire che abbiamo percezione del nostro corpo? No, ecco, il tipo di tecnica generalmente fa questo. Nello specifico dello studio nella percezione del corpo, noi utilizziamo degli stimoli che in qualche modo cercano di isolare la componente consapevolezza del corpo. Siamo partiti da studi molto basic, quindi rudimentali, che mostrano al bambino il proprio volto, e utilizziamo una simulazione visivo-tattile. Il bambino si mostra toccato sulla guancia, per esempio, e quello che vede nello schermo è se stesso toccato, come una semplice esposizione di fronte ad uno specchio, e nelle altre condizioni cerchiamo di manipolare questo tipo di stimolazione che coinvolge più modalità sensoriali. E quello che cerchiamo di vedere proprio fondamentalmente sono i meccanismi implicati nella consapevolezza del sé, cosa ci porta a capire che la mano che vediamo, che si muove, è la nostra. Infatti, questo c'è un po' oscuro. C'è un po' oscuro. Ma perché negli adulti lo sappiamo e quindi lo ricerchiamo anche in quello che viene fuori dal bambino? Oppure cioè, c'è una sorta di modello per cui ci aspettiamo che quella parte del cervello sia più rossa, si illumini? Quello da cui partiamo sono studi nella popolazione adulta che utilizzano illusioni ottiche, illusioni percettive proprio per manipolare la percezione del sé, che non è assolutamente statica, è dinamica, cambia nel tempo e è sottoposta a delle illusioni molto forti. E da questo tipo di studi noi stiamo cercando di capire cosa succede nelle prime fasi evolutive, nei primi giorni di vita. Uno dei progetti riguarda proprio la collaborazione con l'Università di Padova, dove testiamo neonati dalle 12 ore di vita fino alle 96. Ma come fate a capire se il bambino si percepisce o meno? Avete magari li paragonate a quello che può succedere ad esempio ad un adulto, oppure quando gli adulti vengono illusi, ad esempio la famosa scatola in cui c'è la mano di gomma, in cui appunto ci sono si tocca la mano di gomma, esatto. E l'adulto pensa che sia la sua ad essere toccata. Esatto, noi partiamo da quello che sappiamo nell'ambito della psicologia adulta, della manipolazione appunto di questi tipi di percezione, di illusioni, e cerchiamo di risalire a livello infantile per vedere quali effettivamente sono i meccanismi implicati. Quindi, non sapendo nulla di quello che avviene nei primi mesi di vita per quanto riguarda appunto questa differenziazione, se altro, partiamo da quello che conosciamo, dalle queste illusioni che esistono nella letteratura adulta, per vedere se esistono delle corrispondenze, se comunque possiamo in qualche modo comprendere meglio quello che avviene. Comunque gli fate sempre un po' di trucchi ai bambini, sì. Poi quello che capite è che a un certo momento la loro reazione al trucco cambia, e questo cambiamento vuol dire che comunque, anche se c'è il trucco, capisce. Comincia a percepirsi. Percepirsi. Esatto. È così, esatto. Insomma. Questa perfetta corrispondenza tra quello che vediamo e quello che ci accade a livello di propriocezione è specifica del sé, del corpo. Sì. Il tutto il resto è interazione sociale. Nei laboratori lì del Baby Lab i suoi colleghi fanno molte altre ricerche. Inizialmente parlavamo con Federico del sorriso, anche dei giochi, dei giochini dei bambini che fanno sorridere i piccoli. Ci racconta qualcosa di queste ricerche che avvengono appunto nei laboratori accanto al suo? Il centro si compone fondamentalmente di 4 laboratori e il Baby Lab è uno di questi. I diversi progetti di ricerca coinvolgono una fascia d'età che va dai 3 mesi ai 2-3 anni di vita. Il punto fondamentale è lo sviluppo, quindi noi cerchiamo di capire la relazione tra sviluppo cerebrale postnatale e i cambiamenti che avvengono a livello cognitivo, percettivo, di capacità linguistiche. E come avete sottolineato, uno di questi è proprio il cosa fa ridere i bambini, per vedere appunto quando è nata la prima risata, in relazione a cosa. Quando nasce la prima risata, Filippetti? È la prima risata, che non è un riflesso che vediamo nei primissimi giorni di vita nel bambino, è intorno ai 2 mesi di vita, e è proprio in relazione all'interazione sociale, quindi il primo vero sorriso, che non direi una risata, più un sorriso, certo. È intorno ai 2 mesi, al di là del mero riflesso che vediamo anche appena il bambino nasce. Senta, abbiamo anche visto un'altra cosa che in una brochure che illustra le vostre ricerche. Quando capisce il piccolo che qualcuno gli sta dando delle informazioni, ci sono 2 persone, una comunica delle cose, l'altra fa solo dei versi o dei gesti, e a un certo momento voi indicando capite un oggetto. Indicando un oggetto, esatto, e a un certo momento voi capite che il bambino fa una differenza, e cioè una non mi dice niente e l'altra mi sta comunicando delle cose. Anche questo voi ricercate? Sì, quel tipo di studi si focalizza sulla funzione del pointing, quindi quello che cercano di capire con questo progetto è se qual è la funzione del puntare. Effettivamente il bambino si riferisce a puntare in direzione di un oggetto o di una persona con l'intenzione di avere maggiori informazioni in relazione a quell'oggetto o a quella persona. Sì, ha ragione. Infatti, nelle immagini si vedono due donne, una che indica, guarda una palla e dice questa è una palla, e l'altra invece, indicando la palla, fa soltanto un verso. A un certo momento voi capite che il bambino è interessato a quella che gli sta dando informazioni su quell'oggetto. Esatto, e cerchiamo anche di capire se quell'informazione viene immagazzinata, quindi se in situazioni successive, in una distanza di dilatazione temporale di un giorno, due giorni, il bambino ricorda il tipo di la nozione, interazione avuta e continua a puntare in direzione di quell'oggetto per ricollegare quanto è successo prima. E quindi ecco come avviene l'apprendimento. In conclusione, lo scopo di tutte queste ricerche è chiaramente quello di capire che cosa succede nel cervello dei nostri piccoli, ma poi c'è anche diciamo un'attenzione rivolta a quella che è magari la cura di alcune patologie magari neurologiche? Sì, il centro non si occupa soltanto di sviluppo tipico, ma anche di sviluppo atipico, come ha sottolineato anche lei. Quindi tutto il tipo di ricerca ha un impatto enorme all'esterno, col mondo reale. Le famiglie vengono coinvolte e c'è un interesse. E questo è fondamentale sia a livello di sviluppo tipico che anche in quello atipico, dove la presa di coscienza e diffusione dovrebbero essere comunque sottolineati. Il Baby Lab cerca di coniugare ricerca e clinica, e quindi ampliare la comunicazione tra questi due ambiti e di favorire il dialogo e l'aggiornamento. L'impatto che si ha nel tipo di ricerca è proprio volto all'aggiornamento e al tentativo di comunque di conoscere di più la disabilità, di agire anche a livello di predittori di disabilità. Una delle ricerche fondamentali del centro è quella che riguarda i fratelli e sorelle di bambini che sono stati diagnosticati con autismo. E quindi partire nelle prime fasi dello sviluppo intorno ai 4-5 mesi per capire se il bambino verrà diagnosticato con autismo è fondamentale. I predittori di questa, a riuscire a comprendere i predittori di questa disabilità rappresenta un... Ebbene, un grande vantaggio poi, certo. Va bene, grazie Filippetti, davvero in bocca al lupo per la sua ricerca. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Bubussettete. Ecco, e ora cosa dovrei fare? Ridere. Vedi che ridi sempre. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Conoscere la scienza, fare ricerca non significa essere in grado di fare gli imprenditori, gli imprenditrici, magari con aziende appunto che operano nel campo tecnologico. Questo è un grande problema, particolarmente in Italia, e noi lo analizziamo a partire da un focus specifico che riguarda una nostra regione, la Puglia, e per parlarne ho qui con me questa sera Lorenzo Vasanelli. Buonasera Vasanelli. Buonasera. Lei è docente all'Università del Salento, ma è anche, ha delle funzioni di coordinamento e direzione del DITEC, no? Sì, sono in questo momento il presidente del distretto tecnologico high-tech, DITEC, che ha sede a Lecce. Oh, dunque, dobbiamo adesso parlare di una vostra iniziativa molto importante e specifica, però forse spendiamo due parole sul significato che riuscire a costruire una cultura imprenditoriale, magari in alcune aree specifiche, credo, è importante in Puglia. Certo, questo diciamo è una sfida che stiamo facendo noi a Lecce, ma in generale in tutta la Puglia, nell'ambito dei piani POR e PON, cioè dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Sì. La sfida è quella di far capire ai nostri laureati, ai nostri ragazzi, che oltre ai normali sbocchi di lavoro che si possono avere oggi a me con grande difficoltà nel mondo della ricerca, c'è questa possibilità di trasformare il risultato di una ricerca in un'impresa. Non è una cosa facile, però è una cosa su cui i ragazzi diciamo si entusiasmano facilmente. Ma in Puglia c'è una sensibilità all'innovazione, però voi volete molto di più. No, noi abbiamo fatto una bella esperienza, grazie dicevo a questi finanziamenti della Regione Puglia e all'azione dell'Agenzia Regionale Arti, che si occupa proprio di questi temi dell'innovazione, nell'aiutare la nascita di spin-off. Sì. Noi attualmente nell'Università del Salento abbiamo circa una quarantina di iniziative di spin-off che sono nate. Ci siamo però resi conto che spesso queste iniziative nascono, anzi quasi sempre nascono, nell'ambito dei laureati di materie scientifiche, principalmente ingegneria, ma anche biologia o fisica, però senza avere quella necessaria conoscenza e competenza, o meglio quelle attitudini che caratterizzano l'imprenditore. Certo. Per cui magari l'idea è ottima, però poi la capacità di muoversi in un mondo difficile come il mondo dell'impresa non c'è. Questo è un punto assolutamente debole che vorremmo cercare di affrontare. Come si dice spesso, può sembrare strano, ma uno può inventare il teletrasporto e non arriva al mercato. Voi lavorate su però alcune aree specifiche di frontiera, no? Sì, noi diciamo il distretto è nato quando con la legge Moratti nacquero in Italia un certo numero di distretti nelle diverse regioni. Noi siamo stati il primo a nascere nella regione Puglia, adesso abbiamo altri 5-6 tra i nuovi e i vecchi distretti tecnologici nella regione Puglia. Ci siamo divisi ovviamente per aree di competenza e noi abbiamo due aree importanti che sono l'area delle tecnologie ICT, cioè diciamo delle varie applicazioni dell'informatica e delle telecomunicazioni in vari settori, e l'area dei materiali. Noi qui abbiamo un ottimo centro di nanotecnologie che fa capo sia al CNR che all'Istituto Italiano di Tecnologie. Abbiamo un'ottima competenza nel settore dei biomateriali per la medicina rigenerativa. Quindi abbiamo puntato su questi che sono da una parte eccellenze dei nostri colleghi docenti universitari, ma dall'altra parte, a nostro parere e a parere poi anche della regione che ci accompagna, possibili aree di sviluppo del territorio. Ho capito. Per procedere in questa direzione, che cosa fate? Fate praticamente una scuola che dà indicazioni, insomma, farà apprendere a molti giovani come fare impresa. Sì, però questa scuola non è avulsa da un'azione di ricerca. Certo, cioè noi abbiamo avuto approvati dal Ministero, nell'ambito di un accordo di programma, Ministero-Regione Puglia, Ministero dell'Università, Regione Puglia, alcuni progetti di ricerca in questo campo. E come è previsto per queste iniziative del PON, ricerca e competitività, affianchiamo al progetto di ricerca un progetto di formazione. Mettete insieme le due cose in modo che capiscano come c'è la commistione tra i due momenti. Ma voi adesso cosa fate? Una chiamata? Cioè, cosa dobbiamo dire a chi ci ascolta che è possibile candidato per questa operazione di farsi vivi presso di voi? In questo momento noi abbiamo un bando aperto. Bando aperto per 61 borse di studio, devo dire con una retribuzione un po' superiore alla media, diciamo, delle borse di studio. Buono. Quindi crediamo che possa essere attrattiva, purtroppo limitata, ma per ovvi motivi, diciamo, per il tipo di finanziamento, a ragazzi residenti nelle regioni obiettivo convergenza, e quindi Puglia, Calabria, Campania, certo, e Sicilia. Va bene, quindi va tutti bene. Questi ragazzi possono partecipare. E abbiamo messo un limite d'età di 35 anni e un voto di laurea superiore ai 105. E cosa devono fare? C'è un sito dove iscriversi? Il sito del VITEC, VITEC è D-H-I-T-E-C-H. D-H-I-T-E-C-H. Sul sito trovano il bando, c'è una modalità di presentazione della domanda in rete, che poi va ovviamente completata con la domanda cartacea. La scadenza è il 25 marzo. 25 marzo. Ancora un po' di tempo. Quindi dateci dentro, ricercatori, studenti e studentesse. È una bella opportunità. È una bella opportunità. Che però, ecco, se mi consente di chiarire, attenzione, noi non vogliamo formare ricercatori. Sì, certo. Borsa per fare esclusivamente ricerca. No, è per fare impresa. È per fare impresa. Noi vogliamo aiutare i ragazzi a scoprire tra le loro capacità l'attitudine a fare impresa, però a fare un'impresa che ovviamente va coltivata e alimentata dal mondo della ricerca. Quindi loro parteciperanno alle attività di ricerca, ma con quest'occhio, rivolto a attrarre da quello che faranno in laboratorio un'idea d'impresa. Va bene, iscrivetevi allora. Vasanelli ci terrà al corrente poi delle cose che accadono durante il corso. Sì, sì, mi farà piacere, diciamo, risentirci. Il corso comincerà verso maggio, a metà maggio. Ci siamo. È a tempo pieno, quindi bisognerà, diciamo, fare proprio una scelta, dedicarsi, una scelta di vita, direi. È importante. Ma i ragazzi sanno bene che in questi tempi è importante. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci. Ci sono fatti molto semplici da analizzare se si lasciano da parte le tante interpretazioni intuitive e si usano un po' di numeri. Un tema di costante attualità è la grande manifestazione a Roma. Sono anni che periodicamente l'evento si propone e sono anni che durante questo evento c'è qualcuno dal palco che pronuncia la frase «Siamo 3 milioni», più modestamente «Siamo 1,5 milioni», accompagnato da boati di entusiasmo. Oh, dunque, nessun giudizio sull'importanza di questi momenti che sempre ci segnalano come, pur con tutti i nostri acciacchi, ci si trovi in un paese dove la partecipazione democratica è un dato permanente. Però, il dibattito sulle cifre, questo sì, deve cambiare. I primi numeri che appaiono in vista del grande raduno romano solitamente sono i seguenti. 14 treni speciali da tutto il paese e 700 pullman, una roba così. E poi ci sono tutti quelli che arrivano nella capitale con le auto private. Ma io qui voglio andare oltre e simulare una situazione molto più robusta. I treni, per esempio. Facciamoli passare da 14 a 140. Ogni treno porta in media 1500 persone, quindi le ferrovie ci daranno un contributo di 210.000 manifestanti. Ora i pullman. Qui dobbiamo fare il ragionamento seguente. La distanza Milano-Roma è di 585 km. Supponiamo che si arrivi a Roma da 4 direzioni diverse, tutte pari a una lunghezza di 585 km. Sappiamo che non è così, sappiamo che è uno scenario eccessivo, perché in larghezza il nostro paese non si presenta con 1200 km, ma non importa. E immaginiamo pure che lungo queste 4 direttrici, il giorno della grande manifestazione, la mattina presto, si mettano in moto tanti pullman da averne uno ogni 200 metri di autostrada. Un pullman a tre assi è lungo al massimo 15 metri. Se fate un po' di conti, vi esce una cifra di 2.720 pullman per ognuna delle 4 direttrici. I pullman più capienti portano 93 persone. Calcolo conclusivo per tutte e 4 le direttrici, circa 1 milione di persone arriva in pullman. E come vi sarete già accorti, stiamo descrivendo uno scenario infernale. Su ogni autostrada c'è una colonna ininterrotta di pullman, uno ogni 200 metri per tutta la lunghezza. Va bene, proseguiamo con le auto private. È noto che in queste manifestazioni il viaggio privato è praticamente nullo, ma noi mettiamoci 100.000 auto, tutte occupate da 4 persone. Siamo a 400.000 manifestanti. Somma conclusiva, arrivano a Roma 1.600.000 persone, non di più. E beh, però poi per Bacco ci sono i romani, non vorremmo mica dimenticarli. Dunque, Roma conta 2.700.000 abitanti. Il problema è che bisogna arrivare a 3 milioni in piazza. È semplice, basta che 1.400.000 romani ci vadano. È possibile? Che numeri possiamo cercare per dare una risposta? Questi. L'ATAC, l'azienda per i trasporti di Roma, possiede, calcolando autobus, tram, filobus e treni metropolitani, 2.485 mezzi. Nello scenario che abbiamo tracciato noi, per portare nella capitale 1.600.000 persone, abbiamo ipotizzato solo di pullman circa 10.000 mezzi e qui l'azienda dei trasporti ne ha solo 2.485. Come vedete, non ci siamo proprio. Perché su questi mezzi cittadini ci devono salire anche tutti quelli che alla manifestazione non hanno voglia di andarci, non solo romani, ma anche i giapponesi, gli australiani, gli argentini, i tedeschi, gli havaiani, i mongoli, quelli dell'isola di Mauritius e alla via così una bella fetta, insomma, di quel grande e permanente sbarco in Normandia che è il turismo capitolino. Però ora mettiamoci sul palco. Se abbiamo 3 milioni di persone davanti, possiamo fare la seguente considerazione. Il più grande stadio di calcio d'Europa è il Camp Nou di Barcellona. contiene circa 100.000 persone. Mettiamo gente anche sul prato e facciamo 30.000. Vai, andiamo così. Se dividiamo i 3 milioni presenti in piazza per 130.000, ecco che scopriamo che dal parco si parla davanti a 23 stadi Camp Nou. Conclusione. Proprio a mettercela tutta, non c'è manifestazione a Roma che possa superare le 700.000 persone, che peraltro non ci stanno affatto tutte in una piazza, come abbiamo appena detto, no? C'è mai un leader che ha parlato avendo davanti 7 stadi di calcio dello stadio più grande del mondo? Non è rimasto più niente, neanche 10 secondi. Ci vediamo qua fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.